Non so quanti di voi ricordino un vecchio film italiano che si intitolava Arrangiatevi. Era diretto da Mauro Bolognini nel 1959, interpretato da Totò, Peppino De Filippo, Vittorio Caprioli, Franca Valeri e una folla di bravissimi caratteristi. C'era anche una giovanissima Adriana Asti. Ed era dedicato al tema allora abbastanza spinoso dell'abolizione delle case chiuse. Peppino interpretava la parte di un onesto callista che, dilapidati i suoi risparmi scommettendo sulla elezione del Papa, è costretto a trasferire la numerosa famiglia in un ex lupanare, ma non ha il coraggio di spiegare la situazione alla moglie e alle figlie. Totò era l'anziano suocero che, dopo un paio d'ore di commedia degli equivoci, tiene uno strepitoso comizio al balcone per spiegare a certi militari vogliosi e ai connazionali tutti che i tempi sono cambiati e in tema di sessualità extraconiugale bisogna appunto arrangiarsi. Un piccolo capolavoro, in realtà, una felice mescolanza di residuo spirito neorealista e commedia di costume all'italiana. Ma all'epoca la censura vi trovò qualcosa da dire, e ancora oggi uno dei film di Totò che capita meno comunemente di rivedere. La sua lezione, in compenso, è largamente sopravvissuta. Le case di tolleranza sono un ricordo lontano dell'inconscio collettivo, almeno si spera, ma l'invito ad arrangiarsi continua a risuonare nelle sedi più disparate. I nostri concittadini, tanto per dire, hanno avuto agio ad ascoltarlo dalla bocca dei pubblici amministratori in occasione della recente nevicata. Non proprio in quei termini, forse. Toni un poco più sommessi di quelli cari al principe de Curtis, ma è difficile negare che le considerazioni del sindaco sul prezzo insostenibile degli interventi, 500.000 euro ogni centimetro di neve, pensate, e quelle del suo vice sulla necessità di una sinergia con i portieri e i condomini privati, perché il comune non può pulire da solo 4.000 chilometri di marciapiedi, non si può negare che esprimesse un invito del genere. Di fatto, nell'immane casino, appunto, in cui la neve ha trasformato l'orgogliosa città, i milanesi hanno dovuto arrangiarsi. In un certo senso non si può fare a meno di compatirli, Gli Albertini, decorati, i Formigoni, tutti gli altri avevano tanto sperato in una bella nevicata che abbattesse fumi e polvere sottili e vi esentasse dalla necessità di impopolare i provvedimenti contro l'inquinamento. Il presidente della regione si era persino presa con i meteorologi, che invano ne avevano prevista una, e quando la neve alla fine è arrivata, tanto per cominciare, non ha abbattuto proprio niente, e poi vi aggravati di altre indesiderate responsabilità, a dimostrazione di come della natura decisamente non ci si possa fidare. Il concetto non è nuovo, è ben noto alla cultura moderna, da Francesco Bacone a Giacomo Leopardi, per citare due autori di cui si è sentito parlare in questi giorni, ma è improbabile che con loro i nostri abbiano qualche dimestichezza. Che tra gli scopi della politica ci sia anche quello di organizzare la comunità in modo da permetterle di resistere alle difficoltà ambientali, non è idea che possa sfiorargli la mente. La città è ricca, anche se il comune ha i suoi problemi, ma per loro le risorse, poche o tante che siano, devono essere riservate a progetti di alta visibilità e redditività, e più alta comunque che non la manutenzione delle strade e dei tram, la nuova scala farlocca, i grattacieli alla fiera, quello della regione, gli annessi parcheggi sotterranei, tutte cose che, pur rappresentando dei discreti scempi urbanistici, sanziano la volontà di grandezza di chi pure ha avuto il coraggio di paragonarsi all'operosa categoria degli amministratori di condominio. Incapaci di afferrare il concetto di servizio pubblico, prostrati in adorazione perenne davanti al vitello d'oro del profitto, i nostri amministratori si trascinano e ci trascinano da un'emergenza ambientale all'altra, nella serena fiducia che a proteggersi dalla calura estiva e dai geli invernali debbano pensarci a proprie spese gli amministrati, e quelli che le spese non se le possono permettere, appunto, si arrangino. Non è, sapete, un problema di contrapposizione tra imprenditorialità e vocazione sociale? E non si tratta neanche della vecchia dicotomia tra pubblico e privato, che pure al di là delle frettolose archiviazioni, ha dimostrato di mantenere una certa sua corposa consistenza. È un problema più generale, di cultura e di conoscenze. Chi sceglie di governare esclusivamente nell'interesse di certi gruppi sociali, quelli cui appartiene personalmente o di cui si è messo al servizio, decide di limitare a priori i parametri a cui attenersi. Certe cose semplicemente non gli interessano, non le vede neanche, e se l'inquinamento sale consiglia di passare il weekend in campagna. Se i tram non funzionano raccomanda l'uso delle limousine. E se tutto questo rischia di ricordare a qualcuno la famosa battuta di Maria Antonietta sul pane e sulle brioche, non se ne preoccupa affatto, perché essendo di solito ignorante come una capra, su Maria Antonietta ha delle cognizioni piuttosto vaghe. Ora, non dico che per le cariche pubbliche sia necessario scegliere degli intellettuali, ma permettetemi un consiglio disinteressato. Quanti di voi si apprestano a partecipare proprio oggi alle primarie dell'Unione, si accertino prima di votare che il candidato di loro scelta sappia almeno che d'inverno talvolta nevica.